9 in punto, la versione di Oscar. Of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. Cari ascoltatori, buon venerdì 25 di maggio, San Beda per un calendario, un altro mi dice Gregorio VII, grandissimo Papa, insomma, nei tempi della lotta delle investiture, quando c'era molto problema tra capire chi doveva comandare tra la Chiesa e lo Stato laico ha stravinto, ne siamo stati nelle nostre culture e formazioni felici per secoli di questa vittoria. Adesso però un problema è che è diventato autoritario, peggio dei vescovi papi, e il problema è tagliargli le unghie, come sempre nella storia bisogna fare di fronte ai poteri eccessivi. L'ultima ora è che questo imprenditore che si era barricato in una banca nell'Avellinese si è arreso, e quindi il gesto eclatante per fortuna non ha avuto altre conseguenze negative. Un altro di questa catena di gesti eccessivi a cui si arriva perché c'è un paese disperato con la politica che si volge dall'altra parte. Ieri mi ha molto colpito il tono dell'intervento del ministro Passera, per esempio, all'Assemblea di Confindustria. Io ho una grande stima per Corrado Passera, ma il tono con cui compiaciuto elencava i provvedimenti del governo, la svolta eccetera eccetera, era lontano anni luce da ciò che avviene nella pancia di questo paese, nel suo tessuto d'impresa, nei posti di lavoro che vengono meno, nel fatto che ci sono dei dati che testimoniano un rallentamento pazzesco sia nei consumi, nel traffico autostradale. Siamo al settimo mese tra un po' di calo dei depositi bancari, insomma un pochino più di serietà secondo me, il minore autocompiacimento dovrebbe ispirare questo senso di comunanza che bisognerebbe trasmettere dal basso verso l'alto, ma anche dall'alto verso il basso, e mostrare a tutti di averlo. Allora, tra le tante polemiche di una giornata che ha visto appunto il cambio di leadership in Confindustria con Giorgio Squinzi al posto di Emma Marcegaglia, e trovate commentati su tutti i giornali italiani il tono diverso, il tono secco con cui il nuovo presidente di Confindustria per esempio ha deciso di non citare minimamente né Monti né la Fornero, cioè ha deciso che la cosa migliore, visto che entrambi non venivano all'assemblea di Confindustria, è anche questo ovviamente un segnale, il governo è infastidito dalle critiche degli imprenditori, anche il presidente di Confindustria ha deciso di avere un tono duro nella sostanza, ma senza neanche citarli, e quindi ha elencato una serie di critiche che io non posso che richiamare in quello che noi facciamo ogni giorno: la durezza con cui ha richiamato lo Stato ad abbassare la tassa, ad abbassare la spesa, e la nostra da sempre è la vera ricetta per uno Stato trasparente ed è efficiente, e ha detto: se non si parte da questa ridefinizione dello Stato e della burocrazia è inutile parlare di tutto il resto. Poi l'ha elencato nella sua relazione per capitoli, ma il punto fondamentale è quello. Io personalmente sono d'accordo, ma non voglio parlare di quello, voglio parlare di una frase che ieri mi ha molto colpito, per chiedervi che cosa ne pensate voi, perché ieri il ministro Fornero a un certo punto, sentiremo adesso un altro tra qualche secondo, ha ritoccato il tema, secondo me giustissimo, della equiparabilità, dell'omologazione, dell'allineamento che bisogna che avvenga tra i dipendenti pubblici e i dipendenti privati nel nostro paese. Solo che mi ha molto colpito apprendere che il ministro Fornero ha detto che lei auspica che questo allineamento anche sulla licenziabilità avvenga, se lo augura, ed è ovvio che cosa voleva dire, che lei come ministro non è stata in grado di portarlo a casa con la sua riforma, tanto è vero che subito dopo è arrivata la riforma di Patroni Griffi, un vero e proprio controriformatore per quello che mi riguarda, visto che la sua riforma della pubblica amministrazione della settimana scorsa è di un dirigente pubblico a tutela dei propri colleghi dirigenti pubblici. Quella di Brunetta erano parole avanti a chiacchiere non seguite dai fatti, queste sono passi indietro di fatto. Invece, critica dura la mia, sì, critica tagliente, però quando vedo che la parte di salario di merito praticamente sparisce, se non per gli emolumenti aggiuntivi, spariscono le tre fasce in cui si era pensato di distinguere il dipendente pubblico con una percentuale fino al 25% di salario che dipendesse dal suo criterio di risultato, quando vedo che sparisce il criterio di risultato individuale perché verrà valutata solo l'efficienza organizzativa complessiva in maniera collettiva, vuol dire che non c'è il merito, e che sia un dirigente pubblico a doversi da solo autogestire con i sindacati questa roba, a me pare rivoltante, aggettivo pesante, sì sì, me ne rendo conto, sono come al solito un po' tagliente, tranciante. Ora, io chiedo a voi di telefonare per dirci come la pensate, esiste la parificazione oggi del dipendente pubblico e privato, oppure ha ragione chi è insorto contro il ministro Fornero dicendo che pone un problema sbagliato, come ha fatto naturalmente Patroni Griffi con una nota nel pomeriggio. E innanzitutto tentiamo di capire con degli esperti, prima che iniziate a telefonare voi, come stanno le cose davvero. Per esempio, c'è la mobilità per dipendenti pubblici? C'è, ma perché non viene mai attivata? In altre parole, è nella legge la mancata parificazione tra dipendenti pubblici e privati, o è nella prassi del fatto che poi nello Stato le cose si fanno diversamente? Ecco, queste saranno le domande. Adesso andiamo agli ospiti, ma intanto sentiamo in pochi secondi che cosa il ministro Elsa Fornero su questo punto ha detto davvero ieri. Non vogliamo che ci siano difformità di trattamento là dove non sono motivate da esigenze produttive legate alla natura speciale della pubblica amministrazione, che ovviamente non opera sul mercato, ma che non ci siano troppe differenze rispetto alle modalità di lavoro nel settore privato. Allora, il punto è che i pubblici dipendenti, come più volte ricordato da Patroni Griffi, non operano sul mercato, cioè non si assumono per contratto, ma si assumono per concorso, e quindi questo dovrebbe distinguere in maniera significativa le tutele. E le tutele significa che nella pubblica amministrazione, nello schema di Patroni Griffi, nelle diverse modalità previste dalla riforma Fornero, sia pure modificata rispetto alla versione originale, non c'è alcuna possibilità nel licenziamento economico e in quello disciplinare che venga contemplata l'ipotesi della risoluzione del contratto confermata con indennità, ma c'è sempre il reintegro. Allora, innanzitutto facciamoci spiegare da due esperti come stanno davvero le cose e di che cosa sta parlando il ministro Fornero da una parte e il ministro Patroni Griffi, che è insorto dopo dicendo violata collegialità, non solleviamo questo problema. Anche i sindacati si sono allineati sulla linea di Patroni Griffi. Sono con noi Giuliano Cazzola, che è vicepresidente della Commissione del Lavoro della Camera per il PDL. Buongiorno Cazzola. Buongiorno, buongiorno. È uno dei nostri fari abituali quando si tratta di diritto del lavoro, il professor Maurizio Del Conte, che insegna privato e lavoro appunto alla Bocconi. Buongiorno professore. Buongiorno. Posso iniziare da lei, professor Del Conte, per spiegare ai nostri ascoltatori che non sono esperti tecnici, nella realtà in che cosa il ministro ieri dicendo mi auguro l'allineamento si distingue, a che cosa si riferisce rispetto a Patroni Griffi e al sindacato che dicono falso problema? Ma lei ha detto bene ponendo la domanda nella realtà, il problema è proprio quello che succede nella realtà rispetto a quello che sta scritto nella legge. In realtà la legge dal 1993 ha avviato un percorso di sostanziale convergenza fra le regole che regnano nell'ambito del pubblico impiego e quelle che governano l'impiego privato, nel senso che c'è stata la famosa privatizzazione del pubblico impiego, anche se è un termine improprio perché non è che si possano esattamente equiparare i due sistemi, ma in una sostanziale convergenza delle discipline, quindi si applica anche all'impiego pubblico lo statuto dei lavoratori, la legge 604 in materia di licenziamenti e l'articolo 18. Quello che è invece la realtà è un mondo molto diverso, perché vede, mentre nell'impresa esiste un datore di lavoro, un manager, un dirigente che si assume la responsabilità di gestire i propri dipendenti e quindi si assume anche la responsabilità di sanzionarli e ove necessario di licenziarli, nel pubblico impiego questo non avviene. Ma perché non avviene? Non avviene perché in realtà il dirigente della pubblica amministrazione non ha nessun interesse a porre in essere un licenziamento o un atto disciplinare che una volta impugnato e nel caso annullato dal giudice potrebbe ritorcersi contro lo stesso dirigente in termini di responsabilità. In altre parole, il dirigente sarebbe responsabile di fronte all'erario di quanto dovuto in termini di risarcimento al lavoratore. Questo fa sì che da un lato non ci sia nessun incentivo per il dirigente pubblico a davvero organizzare in modo efficiente il proprio ufficio, e dall'altro anzi ci sia un forte timore che un'organizzazione più efficiente del pubblico ufficio diventi per lui controproducente. Quando il ministro Fornero dice faremo in modo, insomma faremo qualcosa, la dichiarazione del ministro non è stata particolarmente dettagliata, ma quando dice dovremo introdurre dei principi sostanzialmente analoghi fra quelli del pubblico impiego e quelli del impiego privato, in realtà dice qualcosa che già c'è, cioè ripeto, è una, la privatizzazione del pubblico impiego non è di oggi, anzi semmai la riforma, quest'ultima riforma è stato un passo indietro rispetto al percorso appunto di assimilazione, perché ricordiamolo, nella riforma del lavoro, proprio in capo alla riforma del lavoro c'è una precisazione che quanto è stato previsto dalla riforma stessa non si applicherà al pubblico impiego, cioè in altre parole si rinvia a una successiva legislazione delle misure di approssimazione. Quindi dobbiamo dire che in realtà oggi abbiamo fatto, perlomeno se la riforma andrà in porto come ci auguriamo a questo punto, un piccolo passo indietro rispetto alla assimilazione del lavoro pubblico con il lavoro privato. Allora, mi pare di capire che in sintesi nei testi di legge non c'è un grande ostacolo, un insormontabile, cioè se poi non si applica per esempio la mobilità è perché non si fa di prassi, non perché non ci sia di legge. Resta il fatto che se il titolare del dicastero a esame parlamentare molto inoltrato dice che si auspica, vuol dire che finalmente tira fuori che su quella clausola che ha appena spiegato il professor Del Conte, contenuta nel testo che porta la firma però del ministro Fornero, non era d'accordo, cioè che ha soggiaciuto alla forza di patroni griffi alla testa dei suoi colleghi, dipendenti pubblici che diventano politici e che diventano depositori di un interesse generale, no, del proprio innanzitutto. Questa è la mia maniera un po' brutale di vedere le cose. Ovviamente spero che Patroni Griffi capisca che sono nell'esercizio dell'articolo 21 e che non mi quereli, perché siamo a primi segnali da parte del governo, dei componenti del governo che mi iniziano a dire guarda che sei prossimo a delle denunce penali. Io mi auguro di poter non avere dai ministri tecnici quello che non ho avuto mai in passato da nessun ministro, cioè si può criticare, si può dire stato ladro tecnicamente spiegando che sta nell'ordinamento autotutelante di uno Stato che si dà ragione da condizioni asimmetriche di pagamento rispetto ai propri debiti, e a me chiede di rinunciare, di portarlo in tribunale per i titoli esecutivi se solo voglio chiedere la certificazione dei miei crediti nei suoi confronti. Ecco, queste sono ordinamentalmente sono delle caratteristiche che mi consentono di poter argomentare con qualche speranza anche in tribunale il mio giudizio secondo l'articolo 21 di uno Stato, ripeto, ladro, è cosa diversa da dire ministro Tizio Caio ladro, ma io penso di poter dire che Patroni Griffi agisce a nome di un interesse che è quello dei propri colleghi, non è quello dei cittadini, e spero che questo non configuri ovviamente un'occasione di querela. Giuliano Cazzola, dal punto di vista prima che politico, lei è anche politico, però innanzitutto uno che conosce l'ordinamento del lavoro e tenta di cambiarlo da anni, l'illustrazione diciamo fattuale del professor Del Conte, per il quale il problema in altre parole è di prassi più che di diritto, che cosa la induce a pensare delle reazioni alle parole del ministro Fornero? Il ministro Fornero forse poteva dirlo esplicitamente sin dall'inizio piuttosto che dirlo adesso un po' per salvarsi l'anima quando il provvedimento è praticamente instradato, è quasi passato, oppure no secondo lei? Allora guardi, c'è tutta una storia da ricapitolare. Innanzitutto io credo che non ci sia molta licenziabilità nell'impiego privato per come è uscita questa riforma della disciplina individuale, che è un pasticcio che complica le cose più di quanto non fossero prima. Ma ciò premesso, la storia è questa. ministro Fornero tratta con le organizzazioni sindacali nella convinzione che le norme valgono per tutti, perché nel pubblico impiego, come ricordava il professore, è dal 1993 che si applica lo statuto dei lavoratori, per cui il ministro Fornero pensa che se si cambia lo statuto dei lavoratori, se evolve questa normativa, evolve per tutto il sistema, per l'impiego pubblico e per l'impiego privato. Il ministro Patroni Griffi solleva la questione di non essere stato coinvolto. Allora, si fa l'articolo 2 del disegno di legge, che nel primo comma conteneva un auspicio, diciamo un'affermazione di principio, che in realtà i principi introdotti con la nuova disciplina individuale dovevano valere anche per il pubblico impiego. Nel secondo comma si diceva che il governo avrebbe aperto un confronto con le organizzazioni sindacali per arrivare ad una soluzione. Ecco, è chiaro che ci sono delle questioni diverse, che nel pubblico impiego, per esempio, il licenziamento economico ha dei profili diversi dall'impiego privato, quindi andavano coordinate le norme con quello che diceva lei, che esistono già per la mobilità, che esistono anche se non vengono applicate. Ma era assolutamente pacifico che per il licenziamento disciplinare la possibilità che il giudice scegliesse fra reintegra o indennizzo dovesse valere anche per il pubblico impiego. Patroni Griffi incontra le organizzazioni sindacali e si fa dettare un passo indietro rispetto a quello che si riteneva opportuno e soprattutto rispetto a quello che discendeva da un'evoluzione dell'articolo 18, per cui è vero, nel pubblico impiego, soprattutto per il licenziamento disciplinare, si è fatto un passo indietro, mal giustificato dal ministro. Io ho letto un suo articolo, una sua lettera al Corriere della Sera, che diceva delle cose che non saltavano neanche i cavalli, cioè diceva che bisognava proibire all'amministrazione di indennizzare, di poter licenziare un dipendente con un indennizzo, dimenticando che c'è sempre di mezzo un giudice, e se questa cosa è una violazione dei diritti vale anche nel mondo del lavoro privato, no? C'è sempre di mezzo un giudice anche nella pubblica amministrazione, per cui la posizione di Patroni Griffi, no, io posso dire che non sta né in cielo né in terra, ed è singolare che nel governo ci sia una linea, uno sbandamento di questo tipo. Conclusione, se dovesse trarre invece lei un calcolo delle probabilità, rimane tutto così com'è con la disparità di cui è diventato garante e numero tutelare Patroni Griffi, oppure c'è uno sblocco nella direzione richiesta dalla Fornero? Diventa difficile prendere impegni per il PDL, perché il PDL vive una situazione di confusione che lei vede benissimo. Ah, poi tra mezz'ora, un'ora prenderemo le novità, quindi vediamo Berlusconi come le spalle. Non si viene a raccontare dopo che Cristo è morto dal freddo, no? Sul Golgotha con tutte queste riforme e così, insomma, mi pare che si basterebbe meno ma meglio. Ci ho detto, il PDL non voterà la riforma Patroni Griffi, quindi io credo, se abbiamo un pochino di fegato, un pochino di faccia, visto che la riforma Brunetta è stata una delle poche cose di cui possiamo vantarci, non voterà la cosa di Patroni Griffi, quindi io credo che questa cosa di Patroni Griffi non andrà avanti, perché veramente è stata criticata da tutti ed è veramente incomprensibile che si sia arrivati a fare una cosa di questo genere. Va bene, allora ce ne andiamo adesso in pubblicità mestamente, perché a me pare che sia più che altro la constatazione di una resa. E adesso non vorrei che chi ci ascolta, quando io dico resa agli interessi, della rappresentanza dei dipendenti pubblici, io non sto attaccando i dipendenti pubblici, non mi passa neanche per la testa, non sono titolare di una visione antropologica per cui il privato è buono, il pubblico è cattivo, non aderisco in nessun modo tanto alle campagne di guerra sociale lavoratori dipendenti contro lavoratori autonomi istigate da uno Stato che tende così a dividervi e a farvi dimenticare come vi tratta da schiavi, Allo stesso modo non lancio io né alimento campagne per i quali sono i lavoratori pubblici il problema, mentre noi lavoratori, imprenditori privati saremmo invece la soluzione. Il problema è la rappresentanza che è titolare di, e che giustamente esercita, poteri super auditivi, per così dire. Quando c'è un ministro che è un dirigente pubblico, tutela i propri colleghi, questo è il punto. È ovvio che si fa, come ha detto Giuliano Cazzola, con un'espressione politica che non posso condividere, si fa dettare, non la posso condividere perché io non lo so se è andata materialmente così. Io posso ipotizzare che il ministro Patroni Griffi non se l'è fatta dettare perché da dirigente pubblico in realtà è il primo a essere convinto che deve autotutelarsi rispetto ai lavoratori privati, e quindi fa lega con il sindacato, che legittimamente a quel punto rappresenta i dipendenti pubblici. Lo dico perché qualche sms di dipendente pubblico dice: Giannino, però non puoi dire che rifiuti una campagna di odio e di attacco per la divisione degli italiani e fomentarla anche tu. Io mi sto limitando a dire che c'è un dirigente pubblico che si spaccia come depositario di un interesse generale. Non lo è, perché nel suo caso, visto che da anni siamo maestri nel vedere i conflitti di interesse più gravi risolti nel nostro paese, ce n'è uno grande e eclatante, come un grattacielo nella sua natura individuale e personale, di retribuito con i nostri denari e di tutelato in quanto dirigente pubblico. Punto. Lo dico col massimo rispetto nei suoi confronti, ma è così. Allora, stiamo esaminando questa querelle dell'allineamento o meno del trattamento dei dipendenti pubblici e privati dopo le parole del ministro Fornero, che ha riaperto la questione evidentemente non accettando la soluzione che il ministro dirigente pubblico insieme ai sindacati del settore pubblico aveva contrapposto alla equiparabilità con un protocollo firmato insieme che precisa le distinzioni. Sentiamo le parole del ministro Patroni Griffi pronunciate qualche giorno fa. Noi abbiamo aperto un tavolo del lavoro pubblico con i sindacati, l'abbiamo aperto la settimana scorsa su una serie di temi, probabilmente anche questo tema verrà portato a quel tavolo, e credo che quindi esamineremo e affronteremo anche questa tematica in generale della mobilità in uscita, avendo conto ovviamente, come le dicevo prima, di alcune peculiarità che già nell'attuale sistema è il settore del pubblico. E visto che siamo però in materia di corruzione, visto che soprattutto ancora non abbiamo definito, come loro sanno, in maniera compiuta la riforma del mercato del lavoro, credo che altri dettagli non sono in grado di poterli dare. Insomma, io eccederò in chiarezza ed essere tagliente, ma è chiaro che il gergo dei dirigenti e dipendenti pubblici, diciamo, si mette nella scala opposta rispetto al mio. In altre parole, distinzione, ma non vi dico su che, questo è quello che capisco io, naturalmente può essere che sbaglio. Iniziamo a vedere come la pensano un po' di nostri ascoltatori e poi io mi tengo i nostri ospiti, però chiedendo loro di pazientare un po' perché ho bisogno poi da loro di ulteriori elementi. Cominciamo con Marco che ci chiama da Torino, prego Marco. Allora, intanto saluto lei Oscar Giannini e i suoi ospiti. Sono un dipendente pubblico e sono a casa con 40 di febbre, per cui sono qui. Questo mi dispiace. No, sì, allora, niente, sentire questi discorsi mi fa molto paura per il fatto che purtroppo, che se ne dica, chi vive negli ambiti, diciamo, pubblici non può che constatare tutti i giorni che sono ambienti assolutamente politicizzati. Per cui, voglio dire, distinguerei sicuramente ciò che sono gli amministratori e i dirigenti che fanno parte di una categoria che si spalleggia uno con l'altro, e la categoria dei dipendenti semplici, perché dal massimo livello al minimo livello, perché qui siamo la riconducerei alla guerra dei pani manzoniani, cioè è una guerra tra poveri. Il fatto, come diceva lei prima, che il dirigente tutela i propri dirigenti e i propri dipendenti, chiedo scusa, è fantascienza pura, perché io senza dire la regione, senza dire nulla, voglio dire, noi stiamo vivendo nella nostra amministrazione una situazione dove c'è un dirigente, tra l'altro già in pensione, che è stato, per cui percepisce la pensione da dirigente pubblico, praticamente è stato chiamato dall'attuale sindaco, ma già da anni, a fare il dirigente, per cui vuol dire, mi fa sorridere, parliamo, parliamo tanto a livello nazionale di lotta contro le mancanze di lavoro eccetera eccetera, e poi direi, e con questo chiudo, ricordiamoci che intanto dal contratto di lavoro dei dipendenti pubblici i dipendenti possono essere licenziati, sì, già sì. Oggi, ma questo io lo ricordo sempre, infatti dico nella prassi, poi non esatto, c'è uno step di 4 passaggi, certo. Però vuol dire, se il dipendente è nulla facente, voglio dire, il problema è che purtroppo i dirigenti mai si prendono la briga di licenziare un dipendente, perché sarebbe mettere su una guerra, perché chiaramente si trasforma e si tramuta tutto in termini di voto, per cui voglio dire, una situazione scostante all'interno di un ambito che fa rumore all'interno dell'amministrazione, agli amministratori stessi dà fastidio, per cui meglio celare un velo che appiattisce tutto e va bene. E poi ricordo ancora questo, specialmente in certe categorie, direi i tecnici, noi spesso e volentieri siamo giornalmente portati a prendere decisioni che possono anche andare contro, perché si rifanno a un regolamento edilizio, a un regolamento urbanistico eccetera eccetera, andare anche contro chi voglio dire dei costruttori pesanti, degli interessi, certo, certo. E per cui voglio dire, noi siamo ricattabili in ogni modo, ogni giorno, per cui voglio dire, nel momento in cui la scusa di ti licenzio perché a livello economico, purtroppo è il caso di queste amministrazioni in questi tempi, dare la possibilità a un dirigente che, ripeto, di cautela dei propri dipendenti, non ne fa nulla, non se ne fa nulla, perché a lui interessa il suo budget a fine mese, interessa mantenere un rapporto con il proprio datore di lavoro, che in questo caso è l'amministrazione sindaco, per cui non si butterà mai nel fuoco per te. Però vedi Marco, io da una parte capisco che tu mi dica il dipendente pubblico, soprattutto in alcune funzioni, ha bisogno di maggiori tutele a nome dell'interesse pubblico, in base al quale poi personalmente valuta come esplicare il suo lavoro, ma in nome e per conto dell'interesse pubblico, e questo io lo capisco come. Perché è ovvio che nella tutela, nell'identificazione e nella tutela di interessi legittimi, oltre che nella tutela di diritti soggettivi e di diritti pubblici, c'è una delicatissima funzione. Dall'altra però mi dici, i dirigenti pubblici pensano solo ai cavoli loro e evitano di dire le quattro strade successive che portano poi alla mobilità e alla licenziabilità in teoria, perché col cavolo poi si mettono a fare una guerra. E allora capisci che lì vuol dire che il criterio del merito non vale e non varrà mai. E questo io sono molto d'accordo con te, ma mi preoccupo però, perché si sta ulteriormente smontando. Prima lo si diceva a parole, si tentava a parole con la riforma Brunetta di farlo entrare, ma lo si smonta e si dice basta, piantatela lì. E questo a me non mi sembra un buon criterio, può essere che mi sbaglio. Massimo da Varese, prego Massimo. Sì, salve Giannino, a lei e ai suoi ospiti. Ma io mi faccio una domanda, e la faccio anche a lei. Ma mi chiedo, visto che si sta parlando di licenziabilità dei dipendenti pubblici, vuol dire che i dipendenti pubblici, se si parla di licenziabilità, quindi sono in esubero, come mai, e quindi bisogna tagliare in quel settore? Visto che fino adesso i dipendenti pubblici sono quelli in tempi di crisi quelli più tutelati, quindi perché non hanno perso lo stipendio, sempre quello è sicuro, è tutto, fatte le premesse, perché non nessuno pensa di, non dico di la percentuale che non sta mai stabilire, comunque di diminuire lo stipendio ai pubblici come è successo, mi sembra, in Grecia o anche in altri paesi? No, è successo in Grecia, è successo in Spagna, è successo in Portogallo, è successo in un bel po' di paesi, non è successo solo in Grecia. Naturalmente lei vuole che avvenga la rivoluzione nel nostro paese. Qui non riusciamo a sapere la somma, il totale di quanto portano a casa, l'apicalità dei dirigenti pubblici nel nostro paese, perché per privacy riusciamo a saperlo solo della loro, di quello che portano a casa per la loro funzione apicale nella dirigenza pubblica, e per il resto con gli incarichi cumulati non riusciamo a saperlo, ed è multipli dell'equivalente dei trattamenti economici di qualunque, sottolineo qualunque, altro paese avanzato, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, come è noto, e non riusciamo a saperlo. Lei mi chiede perché i politici non tagliano le tredicesime delle retribuzioni dei pubblici dipendenti. Caro mio, si può tagliare innanzitutto, io devo essere sincero, molti punti di PIL di spesa pubblica corrente con effetti non recessivi prima di tagliare le retribuzioni. Questo io sono punto numero uno. Punto numero due, si possono tagliare le piante organiche senza gettare la gente sull'astrico e senza licenziarli, cedendo interi pezzi di pubblica amministrazione con gare dove c'è un lock up sulle piante organiche per chi le vince. E questa è la strada maestra da seguire, che in Italia non seguiamo, per lasciare la spesa corrente com'è, e questo è stato un errore dei politici che si sono fatti dettare la politica della ragioneria generale, politici di sinistra, politici di destra, come politici tecnici attuali. Questa è la mia tenacissima, irriducibile opinione. Quando si riducono gli stipendi, come hanno fatto quei paesi, è perché non c'è altra possibilità a breve di diminuire le spese, cioè una manovra di pura disperazione, a dire la verità. Si potrebbe fare, io comincerei con l'apicalità, questo non c'è dubbio, che porta a casa bei pacchi di milioni sommati. Naturalmente mi rendo conto che questi sono temi molto molto delicati. Per il momento stiamo trattando della piena equiparabilità del trattamento di un lavoratore pubblico, di un lavoratore privato, riconoscendo che il pubblico ovviamente ha delle tutele che gli devono venire dalla funzione che esplica. Però ricordo a tutti, prima di dare la parola a Pasquale che ci chiama da Catanzaro, che nelle manovre adottate dal governo spagnolo si è giunti, dopo aver tagliato le quattordicesime e le tredicesime le retribuzioni del settore pubblico, a individuare un criterio per la licenziabilità accelerata nel settore pubblico, che è quello dei dipendenti pubblici che non sono funzionari pubblici. Quindi questa definizione si adatta a un po' meno del 40% del totale dei dipendenti pubblici spagnoli, e nel caso in cui l'amministrazione pubblica da cui essi dipendano sia per oltre 9 mesi in perdita di conto economico, allora si può adire questa procedura rapida di licenziamento. Pensate, se questo fosse il criterio in Italia, che effetti avremmo sui 3,4 milioni di dipendenti pubblici? Pensate che cosa avverrebbe. Però qui c'è un problema di disparità della rappresentanza, lo ripeto ancora una volta. I staccati del settore pubblico hanno saputo fare molto bene il loro mestiere, e la politica non lo sa fare, perché è porosa, è debole ed è in ginocchio rispetto a quello che riserva ai lavoratori privati, sia pure nell'ambito di una riforma del lavoro, su cui poi io condivido il giudizio che tante volte abbiamo detto, che è quello critico, che non ci basta e non ci sembra chissà che sta riforma. Pasquale, tu come la pensi? Da Catanzaro, prego. Buongiorno. Io sicuramente sono d'accordo con lei, ma al di là di questo volevo dire la mia esperienza personale. Giusto, dico questo per evitare che qualcuno dica: ah, ma non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Io sono un giovane ingegnere e quotidianamente mi devo scontrare, confrontare con la vessazione di alcuni tecnici comunali che sono assolutamente incompetenti e impreparati, e questo crea una situazione gravissima. E un'altra cosa importante, ogni volta mi si risponde: sì, ma noi paghiamo le tasse all'origine. Io le pago pure le tasse, finiamole con questa storia che il pubblico paga le tasse e il privato non le paga. Non è così, io sono uno che paga tutte le tasse che deve pagare, sono in difficoltà perché sono un giovane ingegnere, vado al comune ed è un disastro, questa gente rimane lì per mesi, anni, non li tocca nessuno, mi correggono dei progetti e non li sanno correggere perché non sanno leggere le normative e non si preoccupano di informarsi e di formarsi. È un'altra cosa importantissima, cerchiamo, o meglio, una nazione decente dovrebbe cercare di tenere staccata la politica dagli uffici tecnici, perché l'incompetenza di queste persone consente alla politica di manovrarle e di dare quella specie di input necessario per costringere tecnici di vario genere ad andare dal politico a chiedere che la pratica passi. Chiaro? Pasquale, questo che hai appena citato è in teoria il fondamento per il quale esiste l'articolo 97 della Costituzione del nostro ordinamento, che si deve, diciamo, a una antica, fondatissima tradizione di pensiero e di scuola della destra storica che ha fatto poi l'Italia. Ci sono libri bellissimi, La giustizia nell'amministrazione di Spaventa. Quindi l'imparzialità della pubblica amministrazione affonda le sue radici in questa necessità che dovrebbe garantirla e dovrebbe caratterizzarla. Naturalmente sappiamo che nella politica della democrazia di massa è accaduto l'esatto opposto, e quindi l'articolo 97 della Costituzione è uno dei monumenti, per così dire, di una tradizione che ha mestamente abbassato le bandiere di fronte poi alla realtà introdotta dalla democrazia di massa dei partiti nel settore pubblico del nostro nostro paese. Mentre rimbalzano le agenzie dalle 9.30 alla soglia dei sotto i 400 euro, quindi un miglioramento. Dall'altra parte in Grecia Siriza, secondo alcuni sondaggi, è oltre il 30%, quindi insomma mettere insieme le due cose è un po' difficile. Io chiedo al professor Maurizio Del Conte, dovesse nella sua esperienza e conoscenza degli ordinamenti comparati indicare una cosa, una in particolare, che senza immaginare di rivoluzionare con i sindacati a storia pubblico in piazza eccetera, ma si potrebbe adottare nel nostro ordinamento, nell'ordinamento del lavoro del dipendente pubblico, per tentare di migliorare quello che ai nostri occhi è il grande problema che abbiamo descritto anche in questa puntata. A quale istituto, a quale paese guarderebbe? Quale potrebbe essere una novità per tentare di separare la politica dall'amministrazione e di non tenere troppo discosti i regimi di tutela del dipendente privato che oggi è buttato per strada a centinaia di migliaia e di quello pubblico invece? Guardi, siccome il problema è un problema, come ho detto prima, di prassi, non sta nella legge. Io ho fatto molto recentemente un'esperienza in un paese che non si può certo dire essere uno di quei paesi inimitabili per la loro efficienza o per la loro grado di cultura e di tradizione civile, il Messico. Che è un paese tormentato, ma sono stato invitato in un'istituzione per la trasparenza nella pubblica amministrazione. Ebbene, in Messico, sto parlando di un paese che non è certo un paese modello, ma esiste un sistema di trasparenza per cui ogni singolo pubblico dipendente è tenuto a mettere su internet, cioè in un sistema che poi finisce su internet, tutta l'attività che svolge. E i cittadini hanno il diritto di accedere e di fare domande con nome e cognome su ciascun dirigente sull'attività lavorativa ovviamente che ha svolto. Io credo che questo sarebbe una cosa interessante anche da adottare nel nostro paese. Il paese dei cartelli della droga ha da insegnare allo Stato ladro italiano. Questa è la sintesi tagliente di Giannino. Che direbbe invece Cazzola se la domanda fosse la stessa? Lui che proporrebbe? Ma guardi, io proporrei soprattutto una accelerazione, un ampliamento dell'outsourcing, di ridurre l'intervento, lo spazio, il perimetro dell'amministrazione pubblica ed esternalizzare tutto quello che si può fare. Questa mi pare la strada, perché vede, se lei per esempio prende le regole sulla produttività, no, lei trova, non dico soluzioni messicane, ma ci siamo molto vicini, nel senso che trova rapporti, relazioni, giudizi, valutazioni che poi in realtà finiscono poi per essere sempre girati. Io però vorrei ricordare, se lei mi consente, certo, che c'è sempre un giudice di mezzo. Cioè, in questa storia pubblico dipendente deve essere difeso dall'amministratore cattivo, giusto. C'è sempre il giudice che stabilisce se c'è il reintegro o l'indennizzo. Per cui questa posizione che non ha assolutamente alcuna giustificazione. Infatti, perfettamente. Questo credo che vada tenuto presente. No? Il pubblico dipendente può sempre far valere le sue ragioni da un giudice. Questa è una ragione ulteriore. Non si capisce perché il giudice del caso pubblico deve sentenziare solo per il reintegro. Bravissimo, io lo ringrazio, Giuliano Cazzola, ringrazio il professor Maurizio Del Conte. Valentino da Padova, pochissimi secondi per dire una cosa chiara. Valentino. Buongiorno, sì. Io volevo dire che premetto che sono perfettamente d'accordo per l'equiparazione tra dipendente pubblico e privato. Mi sembra assolutamente corretta e esplicativa la telefonata dell'ultimo ascoltatore, l'ingegnere. Ma volevo portare il caso che è successo qui a Padova tanti anni fa, ma che però ogni tanto viene fuori perché mi sembra che ne vogliono fare anche un telefilm. Noi abbiamo adesso un carcere che era di massima sicurezza, che è il carcere Due Palazzi. Sì. Di Padova, e è successo che vaso maniero dal carcere. Ti devo fermare perché ti ho dato 45 secondi, però ti avevo detto che dovevi essere sintetico. L'evasione di maniero non c'entra, e la prossima volta capiremo. Appuntamento a lunedì.